R, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Incidente mortale nella notte nella zona industriale di Buia. La vittima è un gemonese di 50 anni. A bordo di un furgone si è scontrato con una vettura. L'altro conducente è in gravi condizioni. In corso a Roma alla Camera dei Deputati la modifica dello statuto di autonomia della Regione Friuli Venezia Giulia. Su proposta del Consiglio regionale si lavora alla reintroduzione delle province abolite alcuni anni fa. Atteso per questa sera in Consiglio regionale il voto sulla manovra di assestamento, vale 266 milioni e mezzo di euro. La metà è destinata alle spese sanitarie. L'inflazione continua a scendere. In settembre a Trieste era l'1,1% contro l'1,4% del mese precedente. Discesa dei prezzi ancora più marcata a Udine, una discesa pari allo 0,7. Da quest'anno a Udine tutte le scuole medie hanno il doposcuola garantito grazie agli oltre 90.000 euro stanziati dal comune per offrire il presidio pomeridiano, l'esempio di un istituto in un quartiere periferico della città. L'ufficio scolastico regionale promuove un corso di formazione per docenti di sostegno e nonni in programma fino al 13 novembre. Si punta a realizzare nuovi modelli di inclusione nelle scuole. Open day per le discipline di scienze della vita all'Università di Trieste, migliaia gli studenti provenienti anche da fuori, 13.000 eventi le iscrizioni alle presentazioni dei corsi di primo livello, il numero più elevato mai registrato. La separazione dei genitori vista dai bambini, ne parla il libro Perché proprio a me, scritto dalla friulana Carla Garlatti, garante nazionale per l'infanzia, già presidente del Tribunale dei minorenni di Trieste, la nostra intervista. Il responsabile della Caritas italiana in Ucraina ha percorso a piedi e da solo la rotta balcanica. Dopo un mese il suo viaggio si è appena concluso a Trieste, lo abbiamo intervistato. Le 12.32, ancora buongiorno da Alessandra Zigaina e Francesca Terranova. In apertura, purtroppo, un incidente mortale accaduto nella notte in Friuli. A scontrarsi sono stati un furgone e una vettura nella zona industriale di Buia. La vittima è il guidatore del furgone, Raffaele Coppetti, 50 anni di Gemona. Nulla da fare per lui, mentre l'altro conducente è stato trasferito in codice rosso in elicottero a Udine. Lo scontro tra i due mezzi è avvenuto poco dopo la mezzanotte. Notte. Dalle prime ricostruzioni della dinamica della collisione pare che il furgone stesse arrivando da via Casali Leoncini e abbia svoltato per immettersi sulla ex provinciale 49 tra i comuni di Buia e Osopo in zona Rivoli. Il mezzo è stato centrato in pieno dall'auto che stava sopraggiungendo. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri di Gemona e Polstrada di Amaro. Atteso per oggi in Consiglio regionale il voto sull'assestamento autunnale, una manovra da 266 milioni e mezzo di euro, la metà destinati alla sanità. Vale 66 milioni la parte dell'assestamento di bilancio che riguarda l'agricoltura, il via libera ieri in serata, alla presenza dell'assessore competente Stefano Zanier. L'intervento più rilevante è sul fondo di rotazione, un sostegno finanziario al settore agricolo, agricoltura a cui viene assegnato circa un quarto delle risorse totali della manovrina, l'ultima prima della legge di bilancio di dicembre. 266 milioni in tutto, di cui 50 definiti ieri dagli ultimi emendamenti. Sempre ieri si è all'articolo su attività produttive e turismo, mentre stamattina si è discusso di ambiente ed energia. L'opposizione ha criticato un emendamento che prevede la rimozione del veto dei comuni per le aggregazioni di società di gestione degli acquedotti. Secondo il centrosinistra, una norma pensata e scritta per lasciare mani libere al comune di Pordenone sulla fusione tra Idrogea e CAFC. L'opposizione è poi tornata sulla questione dei parchi fotovoltaici, sostenendo la necessità di una legge regionale. L'approvazione dell'assestamento autunnale è prevista in serata. La discussione sarà presumibilmente accesa soprattutto sul tema della sanità, che già nel dibattito generale aveva suscitato molte reazioni anche sulle prossime nomine dei vertici. Sono 150 i milioni assegnati dalla manovrina alle aziende sanitarie per ripianare i disavanzi accumulati. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Potrebbe arrivare questa sera la notizia della rinascita delle province. Prevista infatti per le 17.30 la discussione alla Camera dei Deputati per modificare lo statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, così da reintrodurre il riferimento agli enti di area vasta come pilastri dell'orientamento locale al fianco dei comuni. A rilasciare la dichiarazione sarà l'onorevole Graziano Pizzimenti del gruppo parlamentare della Lega. La proposta nasce da un'iniziativa della Giunta regionale che l'ha approvata 2 anni fa per l'attuazione, serve il via libera però del Parlamento. L'inflazione continua a scendere secondo le rilevazioni degli uffici di statistica relative al mese di settembre. A Trieste l'inflazione su base annua è scesa dell'1,1% contro l'1,4% del mese precedente. A settembre i prezzi sono calati dello 0,4 rispetto ad agosto. Discesa dei prezzi ancora più marcata a Udine, 0,7% su base annua contro l'1,2% del mese precedente. I prezzi scendono su base mensile, meno 0,7%, mentre in agosto erano aumentati dello 0,2%. In Italia l'occupazione femminile è ancora inferiore alle attese, ma in Friuli Venezia Giulia le dinamiche sono migliori. Lo riporta l'ufficio studi di Confindustria Udine su dati Eurostat e Istat. Il tasso di occupazione, cioè il rapporto tra occupati e relativa popolazione di riferimento delle donne di età compresa tra i 20 e i 64 anni nel secondo trimestre 2024, è del 57,6% in Italia, ma è al 69,4% in Friuli Venezia Giulia. La media dell'Unione è del 71%. Se in Italia dunque il tasso è più basso di oltre 13 punti rispetto alla media europea, in Friuli Venezia Giulia il dato è di poco inferiore. Risulta un divario maggiore se lo si confronta con la Germania, 77,7%, e alcuni paesi europei, Olanda 79,9%, Svezia 80,8%, Islanda 85,4. La pubblica accusa nell'udienza di fronte al GUP per la morte di Lorenzo Parelli, lo studente di 18 anni morto il 21 gennaio del 2022 in un incidente nello stabilimento della Burimec di Lauzacco nel suo ultimo giorno di stage, ha accettato la proposta di patteggiamento avanzata dall'azienda attraverso il suo legale rappresentante Pietro Schneider, che prevede una pena di 3 anni e una sanzione pecuniaria di 20.000 euro. Sono stati invece chiesti 3 anni e 4 mesi di reclusione per Claudio Morandini, l'operaio che quel giorno lavorava con la vittima, e 2 anni per Emanuele De Cilla, il tutor aziendale che era stato affiancato allo studente. Le ipotesi di reato sono omicidio colposo, violazione delle norme antinfortunistiche e omissione di controllo. Il processo è stato aggiornato al 29 ottobre per repliche e sentenza. La famiglia di Lorenzo non si è costituita nel procedimento penale, è stata risarcita in sede civile. La polizia locale di Trieste ha denunciato un 50enne triestino che, ubriaco e molto aggressivo, offendeva i passanti e poi anche gli agenti intervenuti per calmarlo. Durante la perquisizione gli hanno trovato addosso 8 coltelli e accusato di porto d'armi abusivo, oltraggio a pubblico ufficiale, ubriachezza e atti contrari alla pubblica decenza, perché si stava lavando nella fontana di Piazza Vittorio Veneto di fronte alle Poste. Deve rispondere anche di ricettazione perché portava con sé 2 cellulari e diversi articoli di bigiotteria di cui non ha giustificato il possesso. Da accertamenti successivi è risultato che telefoni e bigiotteria erano stati rubati quella stessa mattina in un'abitazione. Siamo al meteo, il cielo è da poco nuvoloso a nuvoloso su pianura e costa, coperto in montagna. Queste le temperature registrate alle 11. Trieste e Gorizia 18,5 gradi, a Udine e Pordenone 18. A Tolmezzo 14 gradi, Forni di Sopra 12,5, Tarvisio, Piancavallo e Sappada 11 gradi, sul Monte Zoncolan 7,5 gradi, sul Lussari 6, a Grado 19 e a Lignano 17,5. Le previsioni dell'ARPA: dal pomeriggio il cielo si coprirà ovunque e in serata inizierà a piovere da ovest verso est. Sulla costa soffierà bora moderata, debole o moderata in pianura. Domani avremo cielo coperto con piogge da deboli a moderate, più continue tra pianura e prealpi. Una sfida per il futuro, per l'inclusione scolastica, quella lanciata dall'Ufficio Scolastico Regionale con il corso di formazione per docenti di sostegno e non, appena avviato o in programma fino al 13 novembre. Si punta a realizzare nuovi modelli di inclusione nelle scuole, come prevede la normativa, e che però faticano ancora ad essere attuati. Oltre 700 gli iscritti al corso di formazione organizzato dall'Ufficio Scolastico Regionale per gli insegnanti di sostegno non specializzati sono il 90% del contingente dei circa 1.600 docenti di sostegno supplenti, oltre agli altrettanti di ruolo assegnati alle scuole della Regione. In 630 hanno partecipato collegati da remoto alla prima delle 5 giornate di formazione online facoltative, un'adesione oltre le aspettative, osserva la direttrice dell'Ufficio Scolastico Regionale, Daniela Beltrame, a riprova dell'interesse riscontrato per l'iniziativa a supporto di una figura oggi sempre più richiesta all'interno delle scuole a fronte di un numero crescente di alunni che ne hanno bisogno. La formazione, aperta a tutti i docenti, è centrata sulla normativa vigente sull'inclusione scolastica, un modello all'avanguardia che mette al centro il valore della diversità come occasione di crescita per tutti gli alunni e promuove un approccio innovativo basato su un modello di didattica inclusiva orientato al pieno sviluppo formativo dell'intero gruppo classe. Obiettivi che spesso restano sulla carta e ora si punta a far mettere in pratica, afferma Beltrame, richiamando un maggior coinvolgimento del sistema scuola e degli enti che concorrono all'inclusione. Le più avanti sono primarie e scuole dell'infanzia, mentre alle medie e superiori il processo di inclusione non è ancora pienamente realizzato, sottolinea anche il dirigente tecnico dell'Ufficio Scolastico Regionale, Roberto Gaudio, che ha aperto il corso di formazione. Ci sono ancora problemi culturali e di formazione professionale dei docenti, aggiunge, e prevale ancora il modello di insegnamento basato sulla lezione frontale, in cui al centro ci sono le discipline, non i bisogni speciali di tutti gli allievi, rileva ancora l'esperto, per il quale è necessario invece guardare agli studenti con disabilità come futuri adulti e sviluppare le loro potenzialità per trasformarle in competenze da spendere in autonomia nel loro progetto di vita. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. Da quest'anno a Udine tutte le scuole secondarie di primo grado, cioè le medie, hanno il doposcuola garantito. Questo grazie agli oltre 90.000 euro stanziati dal Comune per offrire il presidio pomeridiano. Questa mattina, buongiorno Regione, siamo stati alla scuola Bella Vitis di Udine, in un quartiere periferico della città, per capire come si sono organizzati. Ci sono gli approfondimenti delle lezioni, conversazioni di lingua inglese, corsi di greco e latino. Si fanno laboratori tecnici come le lezioni di robotica e programmi radiofonici. Non manca lo sport con il basket e le gite per conoscere l'ambiente. Sono le attività pomeridiane del doposcuola della Bella Vitis di Udine, scuola secondaria di primo grado, le vecchie medie, nel quartiere Aurora, nella periferia est della città, contesto considerato difficile, con pochi spazi per il tempo libero. Ma grazie al doposcuola i 152 alunni trovano qui un punto di riferimento. La vicepreside Linda Marrandino. Li aiuta a stare fuori dall'ambiente strada. Per loro la scuola diventa un punto di riferimento, dove possono stare insieme in un ambiente protetto, dove possono fare delle attività. Qui nel pomeriggio i ragazzi si sentono tranquilli, liberi, apprendono in maniera del tutto tranquilla. Nella scuola c'è anche il servizio mensa, ottenuto in collaborazione con la vicina scuola Fritz e grazie all'aiuto del comune, un sostegno per ragazzi e famiglie che rende la scuola più attrattiva. C'è un'inversione di tendenza negli ultimi anni, nel senso che da tutte le scuole primarie del nostro istituto comprensivo, ma anche di altri istituti comprensivi, c'è proprio la ricerca di venire alla Bella Vitis. I laboratori sono all'avanguardia grazie al PNRR. I corsi e le lezioni del pomeriggio sono finanziati dalla scuola stessa o da fondi pubblici. Non mancano i contributi privati per le attività sportive e gli alunni sono entusiasti. L'organizzatore del doposcuola è il professor Francesco Calderini. La cosa incredibile è che fanno scuola senza saperlo, perché vengono qui, affrontano le discipline, che sono discipline curricolari alla fine, però in una modalità totalmente diversa, e quindi possono trovare e approfondire, sviluppare il loro talento. A tenere i corsi pomeridiani ci sono anche professori in pensione oppure ragazzi delle superiori, fanno da tutor grazie all'alternanza scuola-lavoro. Noi ai ragazzi delle superiori e ai tutor diamo carta bianca. L'importante è che garantiscano la serietà dell'attività e la continuità. Ed è incredibile vedere come ragazzi più grandi, per esempio dello Stellini, insegnino il greco ai ragazzi di seconda e terza media, oppure del Copernico o di altre scuole. Udine, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. La giunta per le nomine del Consiglio regionale, presieduta da Mauro Bordina, ha espresso parere favorevole a maggioranza alla candidatura di Mauro Bussani, Andrea Crismani e Roberto Fermo come componenti del Consiglio di amministrazione della Fondazione Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico. Bussani, indicato dal consigliere regionale Roberto Cosolini del PD, e Crismani, indicato da Antonio Caligaris della Lega, sono membri uscenti già designati nella passata legislatura. Cultura, mentre Fermo, presentato da Michele Lobianco di Forza Italia, è un nome nuovo. La loro elezione sarà perfezionata a fine ottobre con la votazione da parte dell'Assemblea Legislativa Regionale. Furion se l'ha espresso parere di astensione da parte del gruppo misto dopo aver sollevato delle perplessità sul curriculum di Fermo. Open Day per le discipline di scienze della vita all'Università di Trieste in vista delle immatricolazioni per l'anno prossimo. Migliaia di studenti provenienti dal capoluogo, dal resto della regione, ma anche da fuori, con centinaia di ragazzi dal Trentino, dalla Lombardia e dalla Campania. 13.000 eventi le iscrizioni alla presentazione dei corsi di primo livello, il numero più elevato mai registrato. Le porte aperte proseguiranno domani e dopodomani con scienze sociali e con l'area tecnologico-scientifica. Abbiamo sentito Lucio Torelli, delegato dell'Università all'orientamento. Io credo che bisogna stare al passo coi tempi, ecco, capire quelle che sono le esigenze, quelle che sono le richieste, quelle che sono i talenti e le passioni dei ragazzi, ma capire anche che cosa si aspetta il mondo del lavoro. E il mondo del lavoro si aspetta persone capaci di ragionare davanti a problemi nuovi, capaci di affrontare professioni nuove o le vecchie professioni ma che cambiano continuamente, quindi sapersi aggiornare, quindi sapersi porre davanti ai problemi nuovi, saper ragionare, studiare con questa mentalità aperta. Servono ancora così tanto gli Open Day o serve essere presenti anche sui social che usano di più questi ragazzi con una possibilità di essere accattivanti? Ma come lavoro, come Università di Trieste, facciamo entrambi perché ci sembra molto importante curare tutti gli aspetti. È certo che la formazione, la presenza fisica gioca sempre un ruolo molto importante. E qui ad esempio il fatto di aver coinvolto un centinaio di studenti per parlare con i ragazzi, per presentare i loro stessi corsi, cioè sono gli stessi studenti che presentano a questi ragazzi e a queste ragazze delle scuole i corsi di laurea, diventa un elemento di presenza molto importante e che dà la possibilità poi di approfondire anche a livello personale. Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. La Garante Nazionale per l'Infanzia, Carla Garlatti, presenta il libro Perché proprio a me? La separazione vista da bambini e bambine. L'evento è iniziato alle 11 al Maxi, Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo di Roma. Il volume è realizzato in collaborazione con il Consultorio Familiare dell'Università Cattolica del Sacro Cuore nell'ambito del progetto Gruppi di Parola per chi ha i genitori separati e raccoglie una serie di frasi e disegni selezionati dagli esperti del consultorio. Sentiamo l'intervista alla garante Carla Garlatti. La separazione è un fatto della vita, è un accadimento, qualcosa che può succedere, quindi nessuna intenzione di colpevolizzare o stigmatizzare i genitori, che però devono rendersi conto che impatta fortemente sulla vita dei loro figli. E qua ci riferiamo in particolare ai bambini, per i quali c'è l'incertezza, la paura, la rabbia. Questi sono i sentimenti che sono emersi dalle illustrazioni che abbiamo raccolto proprio dai bambini. Quindi in questo piccolo libro abbiamo voluto raccogliere i sentimenti dei bambini ed è un libro fatto da bambini ma pensato per gli adulti, per farli comprendere quello che significa la separazione per i bambini. Nella sua esperienza tanti hanno ancora questa mentalità, no, di tenere duro e di rimandare la separazione fino alla maggiore età dei figli, costi quel che costi. Secondo lei è davvero il meglio per loro? E io credo che ogni caso sia un caso a sé. Quello che sicuramente posso dire è che quando viene presa la decisione, questa decisione ai figli deve essere comunicata da tutti e due e soprattutto i genitori devono ricordarsi che anche se è venuta meno la coppia, rimangono genitori. Questo è un concetto che loro devono sforzarsi di trasmettere ai figli proprio per evitare che i bambini e i preadolescenti, ma i figli anche in età più adulta, abbiano la sensazione di perdere uno dei due genitori. Non si è più coppia, ma si rimane genitori e i figli vanno messi al centro. E ora parliamo dell'emigrazione dalle valli del Natisone. Questa sera, nell'ambito delle giornate europee del patrimonio, sarà proiettato alle 18 al Borgo Cinema di via Rastello a Gorizia il documentario Ostanen, rimango, di Elisabetta Agustini. Fuori da quelle valli, in quegli anni, si stava vivendo il cosiddetto boom economico. Quasi tutti i giovani maschi e femmine, in età di lavoro, immancabilmente emigravano e sempre più frequentemente rimanevano solo i vecchi ed i ragazzini. E di quella generazione delle Valli del Natisona ha raccolto le testimonianze Elisabetta Agustini nel documentario Ostanen, rimango, realizzato per l'associazione Slovenzi Posvetu con il contributo della regione, tradotto anche in francese e tedesco, le lingue dei paesi in cui queste persone emigrarono, dove spesso sono cresciuti i loro figli. Sì, questo è un documentario che riporta le testimonianze di persone che sono partite e che sono ritornate nelle valli. Alcuni riportano delle testimonianze molto ricche e molto positive. Altri ricordano quel momento con grande tristezza. È evidente che il distacco dal paese natale, perché non era un distacco volontario, non era un distacco di partire alla scoperta di qualcosa, ma era un distacco necessario. E c'era veramente tanta povertà e c'era veramente il bisogno di trovare una vita migliore altrove. E qualcuno sceglie di tornare. E le interviste riguardano proprio queste persone che hanno scelto di tornare, e qualcuno degli intervistati è tornato a vivere proprio nella casa che aveva lasciato 50-60 anni fa. Nada Cioc, TGR Friuli Venezia Giulia. Finisce qui questa edizione del giornale radio regionale, che è stata redatta e condotta in studio da Alessandra Zigaina e Francesca Terranova. In regia, per la parte tecnica, Marco Ferrito. Ha collaborato in redazione Samantha Gon. A tutti voi grazie per averci seguito e un buon proseguimento d'ascolto. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.